24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano gli ultimi sviluppi nei due paesi al momento, maggiormente nel ciclone della crisi, Grecia e Spagna. Si procede in Europa intanto con il fondo salva stati e si discute anche con polemiche sulla supervisione bancaria. Oggi vi proponiamo la nostra intervista esclusiva al commissario all'occupazione Laszlo Andor. Bruxelles accusa l'Italia intanto patrimonio culturale del bel paese usato solo per il turismo. Infine, tutte le anticipazioni sulla notte dei ricercatori europei. In apertura, come vi dicevamo, gli aggiornamenti su Spagna e Grecia, i due fronti ancora caldi della crisi dell'Eurozona. Cominciamo dalla Grecia, dove i tre partiti della coalizione di governo hanno trovato un accordo sui principali punti per un nuovo piano di rigore necessario per sbloccare gli aiuti europei e dell'FMI. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze Yannis Sturnaras. Abbiamo trovato un accordo sui punti principali del pacchetto di misure che ammonta a 11,6 miliardi, ha affermato Sturnaras al termine di una riunione dei capi dei tre partiti che sostengono l'esecutivo. Le misure prevedono tagli dei salari, delle pensioni e della previdenza sociale, oltre a riforme strutturali dello Stato. Dovrebbero consentire alla Grecia di ridurre di più di 11 miliardi le spese pubbliche e aumentare le entrate di 2 miliardi. Il voto su questo pacchetto da parte del Parlamento è la condizione per sbloccare una tranche da 31,5 miliardi di euro in prestiti da parte della comunità internazionale, destinati soprattutto a ricapitalizzare le banche elleniche. Nuovi risparmi per oltre 35 miliardi di euro, riduzione fino al 20% delle spese dei ministeri, lotta contro la frode fiscale e liberalizzazione di alcuni settori ancora protetti. Queste a grandi linee i provvedimenti approvati ieri dal governo spagnolo, mentre a farla da padrone negli ultimi giorni, lo ricordiamo, sono state le proteste. Come la primavera araba, ha viaggiato su Facebook e Twitter la protesta oceanica di Madrid, conclusa tra arresti e feriti 2 giorni fa. In principio furono 3 donne, madri e lavoratrici, conosciutesi durante la manifestazione del 15 marzo. Cominciarono chattando, proseguirono con Facebook e poi con un sito. Finirono col fissare una data, il 25 settembre, per affiggere pubblicamente il loro manifesto Occupare il Congresso, e cioè assediare il Parlamento, ottenere lo scioglimento delle Camere, redarre una nuova Costituzione. Un assalto al cuore dello Stato non meno pesante della secessione minacciata dalla Catalogna. Vogliamo una rottura col passato, non una riforma, spiegano le 3 attiviste a El País. E molti hanno condiviso, tra sindacati, associazioni, ambientalisti, separatisti, estrema sinistra e non, tutti in piazza convocati via web. Parenti serpenti da sempre, spagnoli e portoghesi si sono riabbracciati in queste settimane, nelle piazze infuocate dalla protesta con la stessa preoccupazione, ben espressa da Antonio Seguro, segretario del Partito Socialista Portoghese, oggi alla radio spagnola Cadena Ser. Il limite sta nella dignità delle persone. Il limite dell'austerità sta nella dignità delle persone. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il primo confronto sul progetto di supervisione bancaria europea alla Commissione economica dell'Europarlamento ha registrato voci preoccupate sui rischi potenziali di divisione tra i 17 paesi dell'Eurozona e i 10 che ne sono fuori, con conseguenze potenzialmente disgreganti per il mercato unico. Alcuni deputati hanno sollevato dubbi sul legame diretto tra il nuovo meccanismo e la ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del Fondo Salva Stati ISM. In generale, la proposta della Commissione europea per rafforzare la sorveglianza bancaria nell'Eurozona ha ricevuto un'accoglienza piuttosto fredda. Nuovo passo in avanti invece verso la piena operatività del Fondo Salva Stati ISM. I rappresentanti dei 27 Stati membri hanno approvato un annesso al trattato che include le recenti decisioni della Corte Costituzionale tedesca. L'entrata in vigore dell'ISM è fissata per il prossimo 8 ottobre. A Lussemburgo si terrà la prima riunione del board a margine dell'Eurogruppo. L'ISM nasce con un capitale proprio di 700 miliardi, di cui 80 versati, e potrà concedere prestiti per un totale di 500 miliardi. Il patto di bilancio europeo, firmato lo scorso marzo tra 25 Paesi membri, potrebbe essere incompatibile con il diritto comunitario a causa della mancata partecipazione dell'Europarlamento. Questa è la tesi sostenuta dal gruppo della sinistra unitaria europea, che non esclude un ricorso alla Corte di Giustizia. E l'Unione Europea ha chiesto al WTO il diritto di imporre agli Stati Uniti sanzioni commerciali per 12 miliardi di dollari all'anno contro le sovvenzioni illegali concesse a Boeing. Siamo ai mercati, seduta contrastata per le principali borse europee, bene Parigi con il CAC 40 che ha guadagnato lo 0,72%, in lieve rialzo Londra più 0,2% e Francoforte più 0,19%, in leggero calo invece Madrid meno 0,15%, positiva infine Milano. There are various ways to translate a policy document into reality. One of them is Parliamo ora di lavoro e occupazione. In questa intervista esclusiva a Radio 24, il commissario europeo Laszlo Andor ha affermato che Bruxelles punterà a far inserire nei piani strategici nazionali le linee guida del pacchetto occupazione approvato dalla Commissione europea nei mesi scorsi. A dicembre sono intanto attese nuove proposte da parte di Bruxelles, mirate questa volta a garantire soprattutto i giovani europei. Secondo e ultimo richiamo ufficiale di Bruxelles all'Italia affinché si conformi alla normativa europea sui veicoli fuori uso. Si tratta dell'applicazione della direttiva che modifica la legislazione sulla fine del ciclo di vita dei veicoli, e cioè dell'emendamento che doveva essere adottato entro il 31 dicembre 2011. La Commissione europea ha deciso di non accogliere la richiesta di aiuti avanzata da 11 regioni italiane che hanno subito danni in seguito alle nevicate eccezionali di febbraio. Lo si è appreso da fonti comunitarie. Secondo Bruxelles, la richiesta non risponde ai criteri fissati per l'intervento del Fondo europeo di solidarietà. Il presidente della Duma russa, Sergei Naryshkin, ha annunciato che non guiderà la delegazione del suo paese all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, prevista lunedì a Strasburgo, in vista della discussione, tra le altre cose, della risoluzione sul rispetto di Mosca degli impegni assunti di fronte proprio al Consiglio d'Europa in materia di diritti umani. Non mancano le polemiche, sentiamo. È sempre più cupo il clima in Russia sul fronte della libertà di espressione. Il 1 ottobre è in programma il processo d'appello contro la condanna a 2 anni alle 3 ragazze pussirate giudicate per teppismo e odio religioso. Nessuno spera in una svolta, il clima è tale che il movimento giovanile del Cremlino, i Nasci, hanno messo una taglia sulle ragazze del gruppo ancora in libertà. 50.000 rubli di ricompensa a chi fornirà informazioni, 1.250 euro che aumenteranno perché i Nasci hanno lanciato una colletta su internet. La Duma, Parlamento fedele al Cremlino, sta intanto esaminando un disegno di legge che rafforza le pene contro la blasfemia, mentre con le stesse motivazioni delle pussi Riot è stato incriminato un altro imprenditore, Aleksandr Lebedev, fondatore della Nova Gazeta dove lavorava Anna Politkovskaya e proprietario in Gran Bretagna di Evening Standard Independent. Lo scorso anno Lebedev diede un pugno a un imprenditore immobiliare durante un talk show televisivo e ora rischia 5 anni. Ma poiché ha finanziato l'opposizione, ha violato la prima regola scritta da Putin per gli imprenditori: non interferire in politica. Così ora, dice Lebedev, Putin si sta vendicando. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. In Italia il grande patrimonio culturale di cui disponiamo non viene messo a frutto in modo coerente, ma viene per lo più considerato un volano per il turismo. E anche i fondi europei sono usati dalle nostre regioni più per rafforzare servizi orientati al turismo che per creare nuove infrastrutture culturali. Questo è il quadro tracciato da uno studio realizzato per la Commissione europea da Pierluigi Sacco, docente di economia della cultura all'Università Ulm. Lo ha intervistato Adriana Fracchia. Noi tendiamo a pensare essenzialmente che l'unica forma rilevante di valorizzazione economica della cultura sia attraverso il turismo culturale, che ovviamente va benissimo, ma è una espressione molto limitata di quello che è il vero quadro di opportunità. Il vero quadro di opportunità è legato alla produzione culturale. Da questo punto di vista, quello che la ricerca fa emergere è che nei fondi strutturali impiegati dalle regioni italiane c'è una tendenza pressoché unanime, con pochissime eccezioni, a iscrivere sempre comunque la progettualità culturale all'interno della valorizzazione turistica, mentre se andiamo a vedere quello che accade nelle altre regioni europee, in molti casi troviamo una situazione completamente diversa. Lo studio serve peraltro proprio alla Commissione europea per contrattare con le regioni, quindi anche con lo Stato italiano, poi con le regioni, lo sviluppo di strategie diverse e più efficaci di utilizzo dei fondi strutturali. Ecco, io spero che questa opportunità sia colta dall'Italia al prossimo giro, anche perché oggettivamente noi siamo il terzo paese europeo per dimensione della nostra industria culturale creativa, ma a volte sembra che non ce ne accorgiamo. Esperimenti, spettacoli e divertimento, tutto all'insegna della scienza. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori, che questa sera vedrà eventi in oltre 300 città europee, centinaia di attività dedicate ad adulti e bambini previste anche in gran parte d'Italia. Dal pomeriggio fino a notte fonda, decine di città del bel paese e i centri di ricerca apriranno le loro porte per avvicinare la scienza al grande pubblico. Visite nei dietro le quinte dei laboratori, esperimenti interattivi, musica e spettacoli teatrali. La manifestazione, giunta alla 7ª edizione, viene promossa dalla Commissione europea con l'obiettivo di mostrare in maniera appassionante il mestiere dei ricercatori e il loro alto valore per la società. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.